passo dalla strada, nota al TG, PG, play, stop DJ. Proprio non dramma serio, zio, 666. Se non sei come sei e dici che ci fai, non reggi la tensione, finisce che ti fai. Solo guai, solo sai, dovevo far diverso. E finisce che fai brutto, senza senso inverso. Dedicato a chi si è perso e non vuole tornare, a chi è ritornato e non sa cosa fare, a chi ha smesso di rappare, a chi vuole scappare, a chi continua ancora e ha voglia di spaccare, a chi cerca calore e trova il cielo in questa era, a chi l'ha trovato nella gabbia di una pera, agli amici in galera che usciranno forti facendosi forti del fatto che sono già morti. Facile yoga, fa gente che sa cresciuti in ti bordelli da vita. Fa gente da mia casa smarrita, che porta sta ferita. Su banalta lena t'ha piaciuto duce da vita. Ieri mota di piaci la mano, da vita ne erano in niente. Figli lasci una sera, non in niente. Figli da pe galera. Oi ma, che tu dica fa l'anno ma, non vuoi ruba. Oi ma, la so sta. Saga ca, nessuno ti trova. S'ammazza una badroga, freddo sottile in sola. Qui vogliono fatte come rate, quei patte fatte coi matte. Oi ma, e che tu dica fa l'anima, ma vuoi una roba. Oi ma, lascia stare.